come detto, dedicato alle primarie repubblicane ancora in corso negli Stati Uniti d'America, primarie particolarmente interessanti ci sembravano quest'anno. Le elezioni primarie, lo ricordiamo, sono quel procedimento con cui negli Stati Uniti d'America i due principali partiti, il democratico e il repubblicano, eleggono il proprio candidato per la Casa Bianca e non solo, insomma, anche per le altre cariche minori. E quest'anno, come spesso succede, all'inizio c'è stata una pletora di candidati, ma la cosa più interessante e curiosa è che nonostante siamo già a buon punto, rimangono ancora quattro candidati in lizza. C'è quello che doveva essere il favorito, l'esponente dell'establishment repubblicano Mitt Romney, c'è il vecchio speaker repubblicano al congresso Newt Gingrich, c'è l'iperliberista texano Ron Paul e poi c'è questo personaggio che è assurto da poco agli onori della cronaca, ma che insomma sta facendo molto scalpore, peraltro è nipote di cittadini italiani, quindi è un italoamericano vero, nel senso che appunto la discendenza italiana è abbastanza fresca. Rick Santorum, noto perché è probabilmente quello più conservatore dei quattro, un vero e proprio integralista cattolico, e sta dando molto molto filo da torcere a Romney. Siamo in compagnia di Guido Caldiron, giornalista di Liberazione, autore di tanti libri e saggi, fra cui uno proprio specifico sugli Stati Uniti che presentammo quando uscì qualche tempo fa. Allora, intanto Guido, buongiorno, direi di cominciare raccontando un po' ad ascoltatori ed ascoltatrici quello che sta effettivamente succedendo all'interno del campo repubblicano e soprattutto magari cominciare con un po' una piccola biografia di questi quattro personaggi che se le stanno dando di santa ragione nonostante facciano tutti parte più o meno dello stesso partito. Sì, intanto grazie, buongiorno sia a te ovviamente che agli ascoltatori, tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ma come giustamente rimarcavi, il primo elemento di queste primarie repubblicane riguarda il fatto che in realtà probabilmente si sa come andrà a finire, ci arriveremo tra poco, ma il vero risultato fin qui delle primarie che arrivano fino a designare a giugno, alla fine di quest'estate, il candidato, perché sarà poi nominato, diciamo, più tardi in una convention repubblicana che si svolge, non ricordo più se tra agosto e settembre, insomma comunque alla fine, diciamo ad alcuni mesi. L'ultima data delle primarie è il 26 giugno, credo, nello stato dello Utah. E il vero risultato fin qui è che ci sono molti candidati e verrebbe da dire forse non c'è più un solo partito repubblicano, quello che gli statunitensi, gli americani chiamano il Grand Old Party, sembra ormai, e questa forse è la prima immagine forte che viene dalle primarie repubblicane, non sembra essere più un solo partito. Diciamo che tradizionalmente la destra americana ha saputo, almeno negli ultimi decenni, diciamo da Reagan in poi, vincere, e forse bisognerebbe tornare addirittura a Nixon, quando ha saputo ricomporre le proprie diversità definendosi quasi come una forma plurale che teneva insieme elementi tra loro anche molto contraddittori. Il fatto è che probabilmente negli ultimi anni gli elementi radicali all'interno del Partito Repubblicano hanno assunto le diverse radicalità, adesso vedremo, cercheremo di delinearle, hanno assunto un tale potere, un tale ruolo che, diciamo, un baricentro che le tenesse tutte insieme, un elemento di agglutinante che le riducesse le asperità reciproche per dare un profilo unico agli elettori, tenendo dentro quindi elettori tra loro diversi ma non in qualche modo incompatibili, sembra essere saltato. E questo è forse il primo elemento. Perché è saltato? Ma perché probabilmente negli anni di Reagan Sicuramente, diciamo, il fenomeno inizia alla fine degli anni 60 con Nixon, si conferma con Reagan e diventa sistema con Bush. Quale fenomeno? Quello di puntare non più su un elettorato fondamentalmente centrista, moderato, conservatore, talvolta reazionario, ma in cui gli elementi radicali estremisti siano di tipo razziale, sia di tipo religioso, sia di tipo culturale, politico, economico, rappresentano delle meteore che ruotano in qualche modo intorno ad un centro potente, tendenzialmente rappresentato da delle classi medie che perlomeno fino agli anni 60 hanno votato repubblicano, ad esempio tenute insieme dal collante dell'anticomunismo. Poi nella stagione di Nixon, che arrivava più o meno a cavallo verso la fine del movimento per i diritti civili, con il collante dell'evitare che le minoranze, prima i neri e poi altre minoranze, assumessero minoranze di genere, minoranze culturali, assumessero potere nella società americana. Bene, questo collante progressivamente è saltato e, diciamo, la politica della destra americana, del Partito Repubblicano, si è riorganizzato a partire non più da un centro che tenesse come satelliti questi elementi radicali, tanto così per fare una sorta di piccola geografia, ma in qualche modo gli elementi radicali sono diventati il cuore della politica del Grand Old Party. Questo si è visto in particolare con le due presidenze di Bush figlio, di George W. Bush, che sono state caratterizzate, come è noto, da un fortissimo ruolo dato agli elementi religiosi. Bush stesso riuniva intorno nella sala ovale della White House, della Casa Bianca, prima di ogni giornata il suo staff, prima di decidere se, dove e come bombardare Saddam Hussein, si riuniva in una seduta di preghiera. Il peso dell'elettorato religioso ha avuto un ruolo determinante. I telepredicatori, è stata la stagione in cui i telepredicatori sono diventati dei profeti politici per tutta la nazione, eccetera eccetera. Oltre a questo, ovviamente, ci sono stati altri elementi, basti pensare ai neoconservatori, cioè quindi una destra in questo caso non religiosa, addirittura non sospettabile di tendenze reazionarie o fascistoidi. Una parte dei neoconservatori venivano addirittura dalle file del trotskismo ed erano arrivati alla destra estremizzando le posizioni antistaliniste, denunciando i limiti che si ponevano alla libertà nei paesi del socialismo reale, fino a pensare che il destino dell'America dovesse essere muovere guerra a tutti coloro che minacciavano in quel modo, diciamo, la libertà nel mondo. Diciamo, questi elementi estremamente radicali, il riemergere sotto traccia di una questione razziale non più legata all'emergere dei diritti degli afroamericani, ma questa volta i milioni di indocumentados, soprattutto di latinos, di ispanici che vivono negli Stati Uniti e che chiedono sempre più ovviamente diritti, ha fatto sì che in qualche modo il Partito Repubblicano sia profondamente cambiato. Alcuni studi usciti negli ultimi anni, c'è uno famoso il cui titolo già indica, diciamo, questa situazione, si chiama Off the Center, fuori dal centro, dice proprio il Partito Repubblicano dei vecchi conservatori di Eisenhower, di Roosevelt, di Eisenhower, di Nixon, eccetera, progressivamente ha lasciato il posto a una nuova cultura politica. Dove sono i vecchi politici? Dov'è quest'idea del bene comune della nazione che i repubblicani, sebbene legati agli interessi economici delle grandi compagnie, hanno sempre rappresentato? Adesso si assiste a una sorta di patchwork di piccoli interessi. Ci sono gli evangelici, ci sono gli estremisti, ci sono i razzisti, ci sono quelli che immaginano l'indipendenza degli stati del sud, ci sono i Tea Party, eccetera eccetera. Il Partito Repubblicano non c'è più. E ecco, finisco, diciamo, l'introduzione. Queste primarie stanno dimostrando esattamente questo, cioè stanno dimostrando che contro Obama malgrado si immaginasse che contro Obama i repubblicani avrebbero trovato l'unità, proprio perché diciamo il nemico era forte, metteva paura ed era potente, invece i repubblicani stanno in qualche modo andando avanti in ordine sparso. I quattro principali candidati che sono emersi fin qui non si risparmiano i colpi bassi e segnalano soprattutto come la sociologia, per così dire, del voto repubblicano non potrebbe essere più diversa, fino a pensare anche a quale eventuale, fino a chiedersi quale eventuale maggioranza e guida politica avrebbe l'America se Obama fosse battuto da uno di questi candidati, visto che dietro questi candidati ci sono degli interessi che all'interno stesso delle famiglie politiche della destra non si riescono a ricomporre, figuriamoci con gli interessi complessivi del paese, figuriamoci con le grandi contraddizioni di un paese che è flagellato insomma in questo momento dalla crisi economica, con milioni di poveri eccetera. Questo è il primo grande elemento delle primarie. Le primarie mostrano un partito repubblicano che non riesce ad uscire dalla predicazione bushana, dall'idea che il suo cuore non batta più al centro, non batta più nella difesa dei vecchi cari valori della patria, della bandiera eccetera, ma sia in mano a una banda talvolta di estremisti. Da questo punto di vista, diciamo, i quattro candidati illustrano abbastanza bene questo scenario, io credo. Senti, questo scenario però dove può portare? Nel senso, anche per quanto riguarda il futuro del bipartitismo statunitense, che tante volte insomma ci hanno decantato anche dalle parti di casa nostra. Attualmente, per fare una sintesi, c'è un candidato ufficiale che avrebbe dovuto essere quello che vinceva a mani basse, che era insomma il tradizionale candidato conservatore statunitense, ricco, espressione dei poteri forti, con un'esperienza da governatore come Romney. Poi c'è Santorum, che abbiamo visto è un integralista cattolico che pensa che la pornografia attualmente sia il problema principale degli Stati Uniti. Poi c'è un ultra iperliberista come Ron Paul, che è talmente iperliberista che su molti temi etici e sociali ovviamente non può andare d'accordo con la destra radicale, almeno con parte della destra radicale. C'è un vecchio arnese, chiamiamolo così, del Partito Repubblicano come Gingrich. All'orizzonte ci sono personaggi ancora nuovi, ancora diversi. Quando presentammo con te il tuo libro parlammo a lungo di Marco Rubio, credo sia il nome di battesimo, senatore governatore della Florida. Governatore della Florida, che anche lui è un conservatore, però molto sui generis, è un figlio, un nipote di immigrati ispanici, quindi pone ulteriori differenze sul piatto. Ecco, in un contesto del genere, e quando anche dall'altra parte in realtà ci sono tantissime differenze e tensioni nello stesso Partito Democratico, tutto ciò potrà provocare o potrebbe provocare una rottura del quadro politico, oppure alla fine si andrà a una ricomposizione? Ma diciamo che appunto io credo che i grandi vecchi del Partito Repubblicano, le grandi corporazioni economiche che tradizionalmente hanno da sempre, diciamo perlomeno dall'inizio del secolo, dagli anni 20, hanno fatto coincidere i loro interessi economici con il sostegno aperto ai candidati repubblicani. Si diceva nelle ultime settimane, lo hanno detto molte cronache giornalistiche, stessero addirittura immaginando di sovrapporre alla fine un ulteriore quinto candidato, espressione della come dire, dei loro interessi, e con la possibilità di avere un minimo di appeal maggiore rispetto all'elettorato. Perché in realtà quello che sta accadendo è che non c'è soltanto un primato, come dire, ideologico, politico, culturale, che indica la contrapposizione tra i diversi politici di destra che sono in corsa in questo momento, ma emerge una evidente difficoltà di immaginare una rappresentazione della nazione, nel senso che, come dicevi, Rooney è percepito in un paese flagellato dalla crisi, insomma, dove tutti dicono le elezioni si vinceranno sulla crisi economica più che sulla guerra, più che sulle questioni di valori, più che sull'aborto, più che su altre, su queste, sulle questioni razziali o qualunque altra cosa. Diciamo, se Obama riuscirà in qualche modo a tenere la barra, riuscendo a produrre un aumento dei posti di lavoro, a ridurre ovviamente la disoccupazione, a tamponare qui e là la crisi sociale del paese, tutti dicono, malgrado i suoi indici di popolarità perdano qualche punto ogni giorno e siano scesi o sotto il 50%, che Obama alla fine riuscirà a vincere queste elezioni, perché appunto tutti dicono in questo momento il problema numero uno degli americani, degli elettori americani, è la questione sociale e la questione economica. Detto questo, quindi, dal punto di vista dello scenario, per quante difficoltà e crisi ci siano anche dentro il Partito Democratico, in molti rimproverano Obama un eccesso di moderazione nei confronti delle sue scelte politiche, nei confronti dell'impegno militare degli Stati Uniti in giro per il mondo, che non è poi così diminuito. Ci sono critiche sul piano dei diritti ambientali. Obama ha fatto molti passi indietro e ha cercato, proprio per vista la debolezza dei repubblicani, di inseguire un ceto medio oggi sempre più indebolito, oggi sempre più proletarizzato, ma che tradizionalmente magari votava per i repubblicani. Lì, su quel settore sociale e sulla possibilità di offrire risposte a quel settore sociale, Obama dovrebbe poter vincere le elezioni. Altri elementi che erano stati agitati in passato, ad esempio tu citavi Rubio, la possibilità, cioè, che il voto ispanico, che il voto latinos cambiasse di segno, sembrano via via diradarsi sempre di più, anche perché i candidati repubblicani fanno gaffa a non finire. Lo stesso Rick Santorum si è indirizzato in questi giorni agli elettori di Porto Rico dicendo smettetela di parlare spagnolo, insomma, no? In uno stato che non è poi nemmeno uno stato americano, ma con molti diritti meno rispetto agli altri stati, quasi annesso, e dove la popolazione appunto è ispanica, per cui, insomma, l'immagine di un candidato che non capisca che cosa, nemmeno chi siano nemmeno i suoi interlocutori, è talmente evidente da questo punto di vista, e nessuno dei candidati repubblicani ha fin qui carezzato troppo, diciamo, il voto dell'immigrazione ispanica, anzi, e quindi da questo punto di vista è difficile pensare il contrario. Quello che però sta emergendo è appunto questa enorme difficoltà di tenere insieme non solo le culture ma anche le rappresentazioni sociali. Facciamo qualche esempio per capirci meglio. Gingrich, che ha vinto in Georgia alle primarie, Newt Gingrich, è stato l'uomo dell'anti-Clinton, è stato l'uomo che ha guidato i repubblicani al congresso nella stagione di Clinton, che ha giocato la carta dell'impeachment per gli scandali sessuali di Clinton, che ha giocato la carta della rivoluzione, diciamo, del ceto medio bianco nella stagione in cui con Clinton in qualche modo sono andati al governo degli Stati Uniti anche tutta una serie di esigenze, di progetti di riorganizzazione dei diritti delle minoranze. Gingrich è stato negli anni 90, a metà degli anni 90, l'uomo che ha sottoscritto con gli americani una sorta di manifesto di difesa del ceto medio bianco impaurito e impoverito. Era la stagione di quel film di cui non ricordo ora il nome, con Michael Douglas che attraversa, sì, Los Angeles, un giorno di ordinaria follia, che era diventato un po' il simbolo, l'emblema di quel ceto medio bianco che ormai viveva con insofferenza crescente il ruolo delle minoranze, la complicazione in qualche modo, il divenire della società americana sempre più complessa, no? Sempre meno simile a quella dei padri e dei nonni. E Gingrich è stato l'uomo che ha accarezzato questo elemento, che ha giocato sulla carta della riproposizione, anche se in forme diverse, di un conflitto razziale. Dopodiché si è, come speaker del congresso, si è in realtà è finito in una palude di piccoli scandali, di vicende sordide di varia natura, e ha perso qualunque credibilità, non può essere il candidato della cosiddetta maggioranza morale, non può essere il candidato dei religiosi per appunto una serie di scandali in cui è stato coinvolto. È stato paradossalmente un uomo dell'establishment repubblicano che ha flirtato con i sentimenti estremisti, ma senza poi mostrare la coerenza che in questi ambienti è richiesta. Quindi Gingrich diciamo alla fine può rappresentare soltanto alcuni gruppi di potere dentro il Partito Repubblicano, ma non ha alcuna chance di avere dei numeri. Ron Paul, come dicevi, è stato a un certo punto il candidato, perché diciamo alle spalle di questa campagna elettorale delle primarie c'è un tema che è stato quello che ha accompagnato la prima parte del mandato di Obama, cioè la cosiddetta rivoluzione dei Tea Party, movimento locale cresciuto in forme diverse in vari stati, con alcuni pivot nazionali, con alcune associazioni, tipo c'è l'Associazione per la Riforma della Tassazione, che è una potente lobby antitasse, diciamo, che ha messo dei soldi a favore della nascita di gruppi locali del Tea Party. Il Tea Party sostanzialmente è diventato il movimento di massa della destra, la risposta di destra a quel fenomeno di mobilitazione sociale, culturale e politica che aveva portato all'elezione del primo afroamericano alla Casa Bianca. Bene, il Tea Party in realtà non ha un candidato, nel senso che non ha saputo produrre nessun candidato, ha sfidato nelle precedenti elezioni alla Camera, ha portato molti candidati, alcuni sono stati eletti, ha sfidato potentemente l'establishment repubblicano cercando di imporre dal basso i propri candidati, ma non è mai riuscito a coalizzarsi tanto da produrre un unico candidato. Ecco, Ron Paul per alcuni versi potrebbe diventare il candidato Tea Party, ma non ha mai abbracciato la causa, ma diciamo non ha mai abbracciato fino in fondo l'aspetto un po' roots, un po' buzzurro, forse possiamo definirlo, del volto del Tea Party, di un'America profonda, un po' provinciale. Però certamente Ron Paul, pur essendo estremamente minoritario, è uno che dice sostanzialmente lo Stato deve andarsene fuori dalle nostre vite, e questo è un linguaggio che piace molto al Tea Party. Siamo a quei livelli di discussione che dicono aboliamo la Federal Reserve, aboliamo qualunque tipo di istanza pubblica, ritorniamo al conio dell'oro, ritorniamo a far valere la Costituzione o la Bibbia come elemento culturale, anzi nel caso di Ron Paul la Costituzione e non la Bibbia. E Rooney, lo dicevamo prima, è un uomo che nei propri comizi di fronte agli operai di Detroit si scorda di omettere che sua moglie gira soltanto in Cadillac, cioè un uomo che è prodotto diciamo da questa elite politica di milionari che stanno alla guida del Partito Repubblicano, non si rende conto che oggi l'America a cui deve parlare è un'America impoverita. Ecco, l'unico vero personaggio emerso fin qui è Santorum. Probabilmente le primarie repubblicane saranno vinte da Mitt Romney perché ha i numeri, perché la somma complessiva dei voti raccolti nei singoli stati produrrà che lui sia il candidato, ma nessuno nel Partito Repubblicano scommetterebbe un soldo nella sfida tra Obama e Romney. Per questo dicevo prima, è possibile anche che all'ultimo minuto avvenga qualcosa di incredibile, che ci sia un paracadutaggio di qualche figura di spessore che arrivi al momento della convention repubblicana a soffiare lo scettro a Rooney. Però diciamo qui è anche un po' fantapolitica quella che evochiamo. Probabilmente i repubblicani vanno verso una sconfitta contro Obama, mettendo nel momento in cui gli americani fanno la coda per trovare un posto di lavoro un multimilionario, miliardario a rappresentare diciamo il Partito Repubblicano. Si diceva che uno dei candidati sarebbe potuto essere uno dei figli di George Bush, Jeb Bush, insomma questa cosa non ha mai preso corpo, e appunto l'idea di dare il nome di avere un Bush da candidare, che avrebbe evocato per la destra diciamo la lunga narrazione appunto di Bush alla Casa Bianca, non si è profilato. Ecco, l'ultimo candidato, Rick Santorum, è la vera novità per alcuni elementi. Primo, perché Santorum non è portato dal Tea Party e quindi in realtà è un self-made man dal punto di vista della carriera politica, nel senso che non ha goduto fin qui di un sostegno di quel movimento che si era mobilitato contro Obama. Ha invece goduto e sta godendo, ha goduto nelle ultime settimane nella cosiddetta Bible Belt, nella fascia della Bibbia degli stati del Midwest e poi del Sud, ha vinto insomma in importanti stati appunto del centro o in stati sudisti come il Mississippi e Alabama, ha riportato in auge quel voto evangelico che diciamo si era, dopo la caduta di Bush, si era allontanato dal Partito Repubblicano, nel senso che Obama è stato in grado di rimobilitare anche le chiese nere. Non dobbiamo dimenticare che quando parliamo di battisti o di chiese evangeliche, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, parliamo spesso anche di chiese nere che hanno saputo portare anche i voti ai candidati repubblicani nei decenni passati, e in qualche modo pure semplicemente non portare voti a nessuno, cioè non fare campagna politica. Il sistema elettorale americano prevede che le persone si iscrivino nelle liste elettorali, cioè un atto non passivo ma un atto attivo di scegliere di votare. Questa iscrizione alle liste elettorali spesso non viene fatta, spesso la gente non va proprio, intere biografie raccontano che le persone non sono mai entrate in un seggio elettorale. Le chiese come elemento comunitario sociale di base ovviamente possono aiutare molto ad indurre le persone a trovare interesse per le elezioni, e quindi la mobilitazione che ha seguito, che ha accompagnato diciamo la candidatura di Obama, aveva visto mettersi in moto anche le chiese nere. Ecco, Santorum ripropone oggi la centralità dell'elemento evangelico, lo ripropone nella fase di crisi e quindi ha sortito io ho sentito in particolare, ricordo il suo intervento in Ohio, dove in uno stato diciamo importante per le elezioni, in uno stato del Midwest, in uno stato però dove diciamo c'erano i contadini e oggi ci sono sempre di più gli operai, o meglio c'erano fino a qualche tempo fa soprattutto gli operai, quindi di quegli stati in cui si mescola diciamo là il disagio sociale con elementi culturali, con elementi comunitari, Santorum sembrava tra tutti i candidati quello che più nel suo discorso ai cittadini di quello Stato, ma anche in generale alla nazione, definisse un orizzonte di valori, di principi, di cultura che potrebbe dare una voce alla destra, quella destra che in questo momento, orfana prima di Bush e in qualche modo messa in discussione oggi dal fatto di non aver prodotto un candidato del movimento Tea Party, ricordiamolo, Sarah Palin è tornata in Alaska a curare i suoi affari personali dopo che una serie di scandali e una biografia non autorizzata insomma ne avevano parlato non proprio come dell'icona dei valori della famiglia e della patria. Michelle Bachmann, che aveva a un certo punto era sembrato poter essere l'erede di Palin appunto e rappresentare il Tea Party, diciamo l'elemento di base della destra più attiva, più militante, ha abbandonato la corsa. Ecco, Santorum, pur con questa caratterizzazione religiosa molto molto forte, sembra quello più in grado di recuperare lo spirito, diciamo, complessivo, anche se non alla lettera, i programmi di questo movimento, di questo vasto movimento di destra che ha preso forma dopo l'elezione di Obama. Vittorio Zucconi su Repubblica ha dato una definizione, io credo, abbastanza interessante, parlando di Santorum come un occupai con la Bibbia in mano, cioè parlando di lui come di qualcuno in grado forse di catalizzare alcuni dei sentimenti di segno ovviamente opposto al movimento Occupy Wall Street, che si sono però prodotti con dinamiche simili, cioè rank and file alla base, come dicono gli americani, dopo l'elezione di Obama, restituendo un po' di mobilitazione dal basso a una destra che appunto con il decennio di Bush era rimasta dentro i palazzi del potere per lungo tempo. Guido, ci stiamo avviando verso la conclusione e volevo utilizzare un'altra suggestione cinematografica, visto che prima hai citato un film molto famoso all'epoca e non solo del 93, che era Un giorno di ordinaria follia. Quattro anni più tardi c'è stato un altro film che fece abbastanza scalpore negli Stati Uniti e non solo, che si chiamava La seconda guerra civile americana. Che per chi non l'ha visto, insomma, era sostanzialmente una satira, un film surreale, ma non troppo, su un tentativo di secessione da parte dell'Idaho, mi pare, o insomma, comunque di uno stato dalla Confederazione, con annessa seconda guerra civile nordamericana in corso. Ecco, quello che insomma uno si potrebbe chiedere è, di fronte a uno scenario simile, in cui sono sempre di più le fasce sociali, le sensibilità politiche che in qualche modo si situano al di fuori non solo del Partito Repubblicano, ma anche dell'altro grande partito, il Partito Democratico, possiamo aspettarci dei momenti di rottura anche forti, oppure comunque il sistema riuscirà ad autorigenerarsi, come è sempre più o meno successo fino ad adesso? Insomma, una delle cose che più saltano agli occhi per chi va negli Stati Uniti per la prima volta è, che ne so, andare a San Francisco e trovare una realtà di un certo tipo, fare 200 chilometri e trovare un mondo che pare completamente diverso. Questo probabilmente vale anche per quanto riguarda la politica. Ecco, lo stato di salute di questo sistema, a tuo parere, qual è? Ma diciamo, tenendo come centro il ragionamento sulle elezioni e che cosa sta accadendo a destra, un elemento è abbastanza evidente. È uscito giorni fa il rapporto più recente, tra l'altro consultabile online, del Southern Poverty Law Center. La sigla sono le iniziali, che è l'organizzazione antirazzista fondata da Martin Luther King a Montgomery, che da sempre, dagli anni 60, opera un monitoraggio dei movimenti di estrema destra, razzisti, violenti. Non stiamo qui parlando della destra e non solo, diciamo, della destra repubblicana, ma stiamo parlando anche, insomma, dei veri e propri neonazisti, del Klan, eccetera. Ecco, dopo aver segnalato un'impennata nei primi due anni, diciamo, dell'amministrazione Obama di questi gruppi, ora l'organizzazione antirazzista segnala come ci sia una flessione dei cosiddetti gruppi nativisti, che vi sia una diminuzione delle attività. Sono diminuiti gruppi apertamente, diciamo, neonazisti, per capirci, o razzisti in modo esplicito, e sono aumentati invece le associazioni di vigilantes, di gruppi che pattugliano il confine, soprattutto in Arizona, in Texas o in California, per impedire quello che loro dicono, l'attraversamento del confine da parte degli immigrati irregolari. Questi elementi sono stati in qualche modo risucchiati anche nella politica mainstream, nel senso che più di un candidato repubblicano ha citato il problema degli immigrati quando si è trovato ad operare negli stati in cui appunto ci sono questo tipo di istanze. Allora, questo è un primo elemento che dice che alcune fratture della società americana sono destinate a rimanere tali, se non ad acuirsi, nel senso che da un lato ci sono milioni di cittadini ispanici che premono per una naturalizzazione, premono per avere la cittadinanza a pieno titolo. È stato questo uno dei punti della grande manifestazione che c'è stata alcuni anni fa, di uno sciopero generale degli immigrati, con grandi manifestazioni soprattutto a Los Angeles, che chiedevano proprio all'amministrazione di Washington di fare un passo, e Obama su questo ha una cambiale aperta che dovrà prima o poi pagare nei confronti di milioni di ispanici. Questa questione, come dire, dall'altra parte, nell'altra parte dell'America, nel cuore profondo, in alcune aree in particolare, è tema di mobilitazione permanente, di continua, come dire, lo conosciamo del resto, è un tema abbastanza comune anche in Italia e in Europa, di continua mobilitazione della paura, insomma, di agitare i temi della sicurezza, eccetera. Questo è un elemento molto importante per quanto riguarda, ad esempio, la non dico la tenuta, forse sarebbe eccessivo, ma l'articolazione interna della società americana. L'altro elemento, sempre guardando alle destre, è che quello che dice con queste primarie repubblicane, quello che dicono le evoluzioni della destra, è che in qualche modo gli elementi antisistemici, cioè quegli elementi che rigettano tout court la legittimità del governo di Washington, il ruolo dello Stato federale, cioè tu dici giustamente l'America è un coacervo di contraddizioni, come fanno a tenersi insieme? L'America è un paese federale in cui in qualche modo ci sono poteri centrali che tengono insieme tutto, e poi tra le Hawaii e la Louisiana ovviamente ci sono culture, stili di vita, eccetera, che non potrebbero essere più lontani tra loro. Questa è un po' l'ipotesi, diciamo, su cui la convivenza civile americana si costruisce. Ebbene, da destra da molto tempo la radicalizzazione della critica verso il sistema, verso Washington, si è acuita fino al punto di diventare, lo abbiamo detto per tutta questa trasmissione, di diventare uno degli elementi caratterizzanti la politica degli elettori repubblicani. Cioè gli elettori repubblicani paradossalmente sono chiamati a scegliere un candidato da mandare a Washington, ma il messaggio che mandano è: noi forse Washington non lo vorremmo proprio, noi forse un presidente non lo vorremmo proprio, vorremmo, come dire, un garante della sovranità popolare, un garante della Costituzione, un garante che nelle scuole si rispetti la Bibbia, un garante che lo Stato non ci metta troppo le mani nelle tasche. Quindi il paradosso è: vogliamo un presidente, verrebbe da dire che sia poi poco presidente, no? Ricordiamo che una delle critiche fatte al medical care, al piano sanitario di Obama è: perché lo Stato deve decidere come devo stare, come mi devo curare, se mi devo curare, che insomma è un po' un paradosso, no? Visto che noi veniamo comunque sia, per quello che resta, da un welfare in cui ci si assicura in qualche modo la sanità, ed è una delle grandi importanti acquisizioni di una società sviluppata. Quindi è come dire, gli elementi di contraddizione sono tutti là, e mai come oggi hanno attraversato le forme più evidenti della politica. Cioè mai come oggi ciò che è rimasto marginale, cioè questo elemento di centrifugo interno, di crisi profonda dello stesso senso della nazione, dell'appartenenza a una comunità, a una medesima comunità, è messo in crisi. Questo dal punto delle culture di destra è molto molto forte, cioè è assolutamente paradossale che oggi un uomo che dica viene prima la Bibbia che le leggi dello Stato, viene prima i miei valori di cristiano, come dice Santorum, rispetto a addirittura le leggi, non farei mai una cosa che fosse contro, diciamo, i miei valori, piuttosto farei una cosa che è contro le norme che mi impongono di violare i miei valori, possa avere tale popolarità. Non sarà lui probabilmente il candidato repubblicano, ma questo ci dice che c'è qualcosa che si è rotto in profondità. Le successive amministrazioni di destra, in particolare di quella di Bush, ma diciamo il corso di questa vicenda iniziato negli ultimi 30-40 anni, hanno prodotto un solco, cioè la società americana è sempre più divisa. Questo potrà portare a uno sbocco drammatico, a una frattura ulteriore? Probabilmente no, saranno elementi destinati ad essere ricomposti. È che poi, esattamente per quello che si diceva, siccome l'America non è solo l'America con la A maiuscola, ma sono gli infinite località di provincia, appunto l'Idaho, non ricordo anch'io se fosse l'Idaho di Joe Dante della seconda guerra civile americana, racconta il microcosmo di un territorio con tutte le sue contraddizioni. Bene, l'America profonda che vive dei territori, del radicamento, delle culture locali, delle tradizioni, delle lingue, eccetera eccetera, fa fatica a riconoscersi in un unico volto. Questa è una sfida importante, è una sfida molto grande, è una sfida a cui Obama prova a rispondere in qualche modo dicendo: avete però dei bisogni primari che sono la casa e il lavoro. Questa è la sua scommessa. La sfida della destra continua invece a dire: una parte consistente degli americani non si specchiano più in questa immagine di paese. Non è più una critica soltanto politica, questa è in qualche modo una messa in mora, una messa in discussione dei principi stessi che sono a fondamento della convivenza civile. C'è una vera e propria radicalizzazione che, se non passa per comportamenti violenti, passa per una costruzione, si potrebbe dire, di un universo parallelo. Ci sono milioni di americani che vivono con la testa, il cuore, le viscere immerse in una cultura che poco ha a che fare con quella che noi conosciamo come cultura mainstream americana, quella cosmopolita, quella sviluppata, quella delle grandi metropoli, quella della circolazione delle idee. Quest'altra America ha preso potentemente il timone in casa repubblicana, e siccome in America ci sono due partiti, o almeno soprattutto due partiti, questo è un elemento di cui non si potrà non tenere conto anche in futuro. No, fra l'altro poi a chiosa di quello che dici tu, e a proposito di contraddizioni, giustamente hai fatto riferimento alla riforma medica voluta da Barack Obama. Romney, che in sede di primarie repubblicane deve ovviamente attaccare a spada tratta quel tipo di riforma, da governatore del Massachusetts ha fatto una riforma che per certi versi era anche più aperta, diciamo, più progressista, se vogliamo utilizzare questo termine, dell'assistenza sanitaria, per cui insomma immaginiamo sia difficile raccapezzarci, sì, anche per l'elettore medio repubblicano, insomma una situazione piuttosto confusa. Sì, staremo a vedere appunto se alla fine di tutto questo i repubblicani andranno verso una sconfitta certa, perché è chiaro che chi ha votato alle primarie per Santorum, chi nel Midwest ha votato come dire, per la fede o contro lo Stato, o negli stati del Sud ha votato contro l'establishment, che è anche un establishment esplicitamente multirazziale, difficilmente si recherà alle urne per sostenere un presidente che è, come si dice negli ambienti della destra americana più radicale, un rino, cioè un repubblicano solo di nome, no? Come si diceva di John McCain, senatore dell'Arizona, che però era favorevole a una riforma dell'immigrazione che aprisse un pochino le porte dello Stato. Insomma, quello non è un repubblicano, quello c'ha solo il nome di repubblicano. Ecco, il problema è proprio questo, questo tipo di elettorato non è disponibile a mediazioni, e appunto condividere, come dire, una riforma di senso comune come quella della sanità significa porsi per loro su un altro pianeta quasi, no? Come ricondurre questo a una dialettica normale credo sia sostanzialmente impossibile. Benissimo, Guido, ti ringraziamo moltissimo per la tua presenza, ci risentiremo magari quando ci sarà, se non ufficialità, insomma almeno sicurezza sul futuro candidato repubblicano, e nel frattempo grazie ancora e un abbraccio. Ti chiederei di restare un secondo in privato. Grazie a te.